Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per gli SMS in diretta 342 357 4357. E anche quest'anno è con noi Simonetta Grechi, organizzatrice dell'11ª edizione del Clorofilla Film Festival in quel di Rispescia, all'interno di Festambiente, provincia di Grosseto, dal 10 al 19 agosto. Simonetta, ben ritrovata. Grazie anche a voi. Come stai? Indaffarata, immagino. Un po' stanca. Allora, siamo in fase di ultimi allestimenti. È certo. Senti, allora, questa puntata l'abbiamo dedicata al Clorofilla Film Festival, tra l'altro è l'ultima prima della pausa estiva, lo faccio con piacere. Facciamo intanto una panoramica, visto che poi tutti gli altri ospiti saranno registi dei documentari e cortometraggi presenti all'interno della rassegna. Io direi di fare intanto una panoramica con te, visto che insomma hai avuto in mano la scelta dei titoli. Sì, dunque, di fatto noi abbiamo già iniziato il Clorofilla a luglio in Sardegna al Posidonia Festival a Carloforte, poi diciamo una seconda parte si è svolta a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia all'interno di Festambiente Sud, e ora in questi giorni sono in corso delle proiezioni a Ostuni e domani cominciamo qui a Festambiente, che è poi la sede storica del Clorofilla Film Festival. Tra l'altro, Simonetta, scusami se ti interrompo, per quanto riguarda le proiezioni a Ostuni, mi è arrivata la mail di Piero Cannizzaro, l'11, cioè dopodomani ci sarà Tradinnovazione. Sì, la sua. Esattamente, sì, è la seconda proiezione che organizziamo a Ostuni quest'anno e poi le altre saranno tra fine di agosto e fino a metà settembre. Sì. E dunque noi iniziamo domani appunto con un documentario di Francesco Cavaliere, che credo tu abbia già intervistato. Sì. Proietteremo Resistenza, 8 storie di resistenza civile a Scarpia. Poi proseguiamo l'11 con Uomini Soli, il documentario di Paolo Santolini, che proiettiamo in occasione della giornata di Libera, e sempre in quella serata abbiamo altre due proiezioni. Una è Munnizza di Licio Esposito, un bel corto dedicato a Peppino e Felicia Impastato, e poi abbiamo in chiusura This in Italy, di cui parlerai più tardi se non erro. Sì. E poi vabbè, fino al 19 abbiamo tutta una serie di soprattutto documentari e una serata dedicata ai corti il 15 a Ferragosto. Senti Simonetta, non so di cosa andrò a parlare. No, io so che dimmi. So che tu ogni anno fai dei salti mortali, perché i fondi sono sempre più ridotti, eppure riesci sempre a mettere in piedi una programmazione degna di, insomma, del lavoro che riesci a mettere in campo. E anche questo grazie a varie collaborazioni in giro per l'Italia. Non a caso citavi. Questa, infatti, guarda, questa è una cosa fondamentale che ci permette di vivere, di sopravvivere, non lo so quale sia il termine più giusto. Proprio grazie appunto a queste collaborazioni che abbiamo in giro per l'Italia, che poi rappresentano un po' il mondo di Legambiente, il mondo delle feste di Legambiente, riusciamo poi a dare, diciamo, una panoramica abbastanza allargata di quello che accade nel cinema documentario e nei corti. Il programma dei lunghi, devo dire, è momentaneamente sospeso, non entro nel merito della questione perché sarebbe troppo lunga la cosa, però non lo faremo mai successivamente. Diciamo, noi, tanto il Clorofilla è un festival, diciamo, che dura tutto l'anno, no? Quindi esatto. Prossimamente faremo anche il concorso dei lunghi, che abbiamo già tra l'altro selezionato, e magari ne riparleremo più avanti. È semplicemente posticipata, insomma, diciamo. Posticipato, okay. Sì. Senti, Simonetta, l'altro anno è stata la 10ª edizione, quest'anno 11, visto che è una tua creatura, te la senti di fare anche un bilancio rispetto a tutti questi anni, a questo piccolo festival? Dunque, no, non è una mia creatura, questa cosa ci tengo a dirla, nel senso che il Clorofilla lo abbiamo ereditato da Pino Di Maula, sì, che è un giornalista, era all'epoca un giornalista della Nuova Ecologia, il mestiere di Legambiente, e ad un certo punto del suo percorso ce lo ha in qualche modo affidato, dopo mi pare 2 edizioni che lui ha realizzato nel Parco delle Foreste Casentinesi e nel Parco della Sila. Sì. Lo abbiamo in qualche modo ereditato, quindi lo abbiamo un po' coccolato in questi anni, accudito, cresciuto, non lo so. Insomma, però diciamo che c'è il tuo grosso impegno per portarla avanti di anno in anno, insomma, diciamo che anche se e come si è sviluppato lo si deve a te, insomma. Beh, oddio, questa mi sembra un'affermazione un po' più grande di quello che realmente è, però sì. Diciamo che il cuore e l'impegno c'è, mancano altre cose, però prima o poi arriveranno, speriamo. Ecco, e che impressione? Dunque, in termini di, come ti dicevo prima, di collaborazioni anche sul territorio, perché poi appunto, sì, come dicevamo, Clorofilla si svolge un po' tutto l'anno, per cui durante l'anno proponiamo delle proiezioni nell'unica sala del sede di Grosseto, che è il Cinema Stella, mm-hmm, quindi almeno 2 volte al mese organizziamo delle proiezioni lì, da ottobre fino a maggio, quindi... Poi collaboriamo comunque anche con altre associazioni sempre qua di Grosseto, più ci sono appunto tutti i festival di cui parlavamo prima, quindi il bilancio in questi termini è molto positivo, sì. Almeno è quello che ci dà la carica per continuare, perché se fosse per le risorse economiche probabilmente, certo, avremmo già smesso prima di iniziare, certo, questo è certo, ma sicuro. E... per quanto riguarda le proposte filmiche, sempre un bilancio di questi anni trascorsi? Un bilancio, direi, anche in questi termini positivo, sì, nel senso che abbiamo proiettato dai film ai documentari ai corti, quest'anno arriviamo a una 50ina di proiezioni solo durante l'estate, a cui si aggiungono altre proposte durante l'inverno, per cui mi sembra un modo anche per conoscere, soprattutto, quindi per crescere anche, certo, per noi, insomma, certo, ecco, quindi da questo punto di vista è sicuramente molto molto molto positivo. In questo magari non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo, quello sicuramente, perché per tanti motivi non è possibile nemmeno dare spazio magari a dei lavori meritevoli che ci arrivano per il concorso. Cerchiamo magari in alcuni casi di riprenderli, di riproporli, se c'è la possibilità, magari in inverno o comunque in altre rassegne. Questo è quello che cerchiamo di fare. Tra l'altro, in questo senso, mi sembra che andiamo un po' di pari passo sia la trasmissione di cinema che il Clorofilla, nell'attenzione che negli anni stiamo dimostrando sempre di più verso i cortometraggi, ma soprattutto i documentari, che sono una realtà molto dinamica oggi. Sì, molto, soprattutto con molta affinità anche con le tematiche che trattiamo. Sì. Oltre che ambientali in senso stretto, anche di proprio di su tematiche sociali o comunque di stretta attualità, ecco. Sì, sì, sì, sì, sì. Senti Simonetta, visto che ci siamo, parliamo anche del momento dedicato al Teatro Valle Occupato e anche ai momenti di presentazioni di libri e anche di momenti teatrali che organizzi insieme al Clorofilla. Sì, dunque, prima delle proiezioni organizziamo in un uliveto degli spettacoli di teatro o presentazioni di libri, appunto. E, per quanto riguarda nello specifico il Teatro Valle, proietteremo ogni sera dei video che riguardano la costituzione, la costituenda fondazione per il Valle. E inoltre il 18 agosto presentiamo il libro edito da Derive a Prodi, che si intitola appunto Teatro Valle Occupato, oddio non me lo ricordo. Però insomma è facile trovare informazioni sia sul sito del Clorofilla, cioè di Festambiente, sì, dello spazio Clorofilla, che del blog del Teatro Valle Occupato, insomma. Sì, il 18 alle 19:15 c'è appunto la presentazione del libro, sì, sul, sì, Teatro Valle. E devo dire che devo ringraziare Danilo Nigrelli, che è un attore tra l'altro di Grosseto, sì, che è tra gli occupanti del Valle, che ha in qualche modo ci ha aiutato, insomma, in questa fase di collaborazione, insomma, che è nata anche l'anno scorso. Tra l'altro avevamo proiettato gli spot vari del Cinegiornale, tra l'altro dopo un anno, lui è stato presente anche proprio materialmente al Clorofilla Film Festival, ricordavamo con lui proprio parlandone al Teatro Valle Occupato nell'estate del 2009, nell'edizione del 2009 del Clorofilla, c'era lui tra gli ospiti, insomma. Sì, sì, sì, lui era tra gli ospiti, era il protagonista di uno dei film che avevamo in concorso. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Per quanto riguarda gli altri spettacoli, mi preme ricordare uno per tutti, diciamo, altrimenti magari poi mi dilungo troppo. Antropolaroid di Tindaro Granata. Tra l'altro anche lui ha proposto lo spettacolo proprio al Teatro Valle nei mesi scorsi, durante l'occupazione. Bene. Senti Simonetta, hai trovato per me una mansione, visto che verrò lì e sarò, spero, al tuo fianco. Sì, grazie del supporto. Io posso fare il presentatore, le interviste, insomma, agli ospiti che ci saranno all'inizio di ogni proiezione, quando presenteremo i loro lavori, immagino. Certo, sì, mm-hmm, sì, sì. Bene Simonetta, allora per altre informazioni, altri dettagli, rimandiamo al sito di Festambiente, dove c'è tutto il settore legato al Clorofilla, anche con la programmazione. Tra poco sì, sentirò. Posso dire un'ultima Come cosa? No, certo. Volevo ricordare solo la premiazione, quest'anno non avverrà a Grosseto ma a Roma. Ah. A Roma a Festambiente Mondi Possibili, che è alla prima edizione. E sarà il 20 settembre, sarà una festa fuori porta per noi. Benissimo, allora ricordiamo invece le date delle proiezioni dell'undicesima edizione del Clorofilla Film Festival a Rispescia, provincia di Grosseto, all'interno di Festambiente, dal 10 al 19 agosto. Simonetta, un abbraccio, ci vediamo domani, adesso sentirò piano piano tutti gli altri registi. Grazie mille, a domani e arrivederci a tutti. Ciao Simo. Bene, Simonetta Grechi, organizzatrice dell'undicesima edizione del Clorofilla Film Festival, e adesso passiamo ai registi. Stefano Savona, regista del documentario Tahrir Liberation Square, che sarà presentato il 16 agosto al Clorofilla Film Festival. Stefano, ben ritrovato. Ciao. Come va? Ebbene, insomma, la piena estate parigina e lavoriamo, quindi bene. Bene, bene. Non c'è caldo. Tra l'altro noi ci eravamo sentiti lo scorso anno sempre per questo lavoro che poi ha subito delle modifiche, insomma, quando ne parlammo era i ragazzi di Piazza Tahrir, se non sbaglio. Sì, era la versione per Rai 3, che era una versione breve di 50 minuti e che avevo in realtà montato prima del film lungo che poi è stato presentato nell'agosto scorso a Locarno, quindi esattamente un anno fa. E ci sentiamo anche dopo il David di Donatello per il documentario. Sì, per fortuna è andato quest'anno il David Hale e i Nastri d'Argento, è stata insomma abbastanza fortunata l'annata di Tahrir. Senti, ti sento un po' che va e viene la comunicazione su questo. Strano. Adesso un po' meglio. Stefano, un lavoro che ha richiesto la tua presenza lì, eri tu solo con la macchina da presa. Allora raccontaci un po' la genesi, lo sviluppo di questo progetto. Sì, io quando è iniziata la rivoluzione non ero in Egitto, ero qui a lavorare a un altro film, al Palazzo delle Aquile, però l'Egitto è un posto in cui torno da 20 anni, quasi ogni anno, perché è lì che ho iniziato a conoscere il mondo come archeologo ed è lì che ho deciso di smettere di fare l'archeologo, quindi una storia lunga che mi lega all'Egitto. Quindi è stato, non ero mai riuscito a fare un film in Egitto. Quando è iniziata la rivoluzione, come tutti davanti alla televisione o a internet, guardavamo queste immagini e non capivamo più di tanto, però per me era importantissimo a quel punto andarlo a vedere con i miei occhi, prima ancora di fare un film. Proprio era fondamentale arrivarci in Egitto e vivere quella situazione insieme a loro. Quindi incoscientemente ho preso la macchina fotografica, un registratore e sono partito. Ho preso le cose più leggere proprio per evitare di essere bloccato dalla polizia e avere più possibilità di arrivare in piazza. E quindi sono partito da solo, sono andato 2 giorni dopo, ho preso la decisione di partire per questo biglietto, ero lì al Cairo e poi il film è iniziato. Sono arrivato su Piazza Tahrir subito con questa attrezzatura minima e là iniziava il problema di doverci fare un film, perché non mi davo perché avessi possibilità all'inizio di riuscire proprio ad arrivare lì con l'attrezzatura. Ho detto proviamoci, e una volta che ci ero riuscito tutti i problemi legati proprio materialmente a come fare il film cominciavano, e quindi è un film che è nato proprio dalla presenza più che da qualsiasi idea che potessi avere prima. Quanto è stato il tempo trascorso lì in piazza, Stefano? 2 settimane, perché appunto io sono arrivato il 6° giorno e la rivoluzione è durata in tutto 19 giorni, e quindi sono stato lì praticamente 2 settimane, insomma, da fine gennaio sino al 12 febbraio. Allora, visto che comunque hai vissuto quella situazione da vicino, da molto vicino, dall'inizio dei tuoi lavori e ad oggi, come vedi cambiata la situazione? La storia della rivoluzione egiziana è una storia totalmente in atto. Io ho raccontato la prima settimana, che è stata quella più eclatante, che è finita con le dimissioni di Mubarak, però il processo che va verso una società democratica, se mai ci arriverà, in Egitto è totalmente in atto ed è costellato di difficoltà e di cose anche imprevedibili, perché in ogni momento succede qualcosa che mostra appunto come sia un processo storico molto lungo, difficile, complesso. Certamente non simile a quello della Piazza Tahrir, invece, in cui c'era proprio questo slancio popolare vero e fortissimo che ha portato proprio in maniera diretta alla caduta di Mubarak. Poi è iniziato il normale, diciamo, rapporto di forza tra le varie componenti della società egiziana, quindi l'esercito, i fratelli musulmani, la società civile che si era in qualche modo appena formata, e queste entità sono pienamente in gioco, in lotta ancora oggi, più che mai, per costruire l'Egitto futuro, che però ci vorranno anni e anni prima di capire realmente, prima che la situazione si stabilizzi in una vera democrazia. Sicuramente ci sono molti elementi di per i quali essere pessimisti, ma anche una serie di cose positive che sono, se non altro, l'inizio di una società civile, di un'opinione pubblica, di partiti politici di ogni tipo che ormai sono più o meno liberi in Egitto di esistere, prima erano totalmente inesistenti, quindi insomma è una storia che ci vorrebbe moltissimo tempo per raccontarla. E comunque dopo la rivoluzione sono andato in Egitto due volte, adesso ci andrò una terza volta, e ogni volta succedono eventi nuovi che fanno sì che veramente è qualcosa di appassionante, ma anche difficile da raccontare. Certo. Con i mezzi del cinema, c'è una cosa tragica, una cosa da raccontare un'intera società. Il cinema egiziano lo sta raccontando, e sempre di più usciranno film egiziani che racconteranno questo, infatti quello sarà interessante. Ecco, proprio rispetto alle aspettative, alle speranze, il peso della società civile e delle donne. Ma la società civile non esisteva prima, perché prima appunto era impossibile parlare di politica con qualsiasi egiziano che non fosse c'era qualche blogger, qualche attivista, ma che viveva in assoluta clandestinità o quasi per anni. E poi invece la società civile non esisteva, non c'era un giornale libero, non c'era un discorso libero. Dalla rivoluzione invece il discorso politico è iniziato assolutamente dovunque, in tutti gli strati della società non si parla d'altro che di politica, e quindi questo qua è la vera novità, e questa sta costituendo una serie anche di nuovi soggetti politici, anche di base, perché quello che è abbastanza impressionante dell'Egitto è che si sia riusciti a organizzare una rete vera e propria di piccoli movimenti, di piccole situazioni politiche che hanno tra l'altro delle regole democratiche estremamente interessanti al loro interno, ma che sono ancora comunque minoritari, ma che hanno una forza crescente che arriverà al 10 o 15%, però comunque sia molto, molto forte. E dall'altro lato invece c'è il blocco precedente, che da un lato sono gli interessi chiaramente del vecchio regime, che è morto per modo di dire, perché comunque tutta la società era gestita dal partito di Mubarak, e quindi quelli là sono ancora lì e più o meno sono ancora molto spesso al potere. E poi c'è invece il blocco dei fratelli musulmani, che esisteva già prima della rivoluzione, quindi quelli sono dei blocchi di potere, e i militari sono dei blocchi di potere che già c'erano prima. La società civile, e quindi qua anche le donne, stanno cominciando a costruire delle alternative, però come in tutte le democrazie loro discutono e spesso non sono d'accordo neanche al loro interno, mentre dall'altro lato questi grossi Moloch che gestiscono il potere non hanno una vera democrazia interna, e quindi vanno avanti col centralismo assoluto. E quindi è chiaro che è difficile per questi movimenti riuscire velocemente a fare sentire la propria voce, però secondo me le pratiche democratiche che sono in atto adesso in Egitto, specialmente appunto in questi movimenti di giovani che sono nati sulla piazza Tahrir, quelle in qualche modo prima o poi avranno un ruolo centrale nella politica egiziana. Già adesso impediscono che la politica faccia quanto potrebbe fare di peggio, perché comunque ogni volta che hanno cercato di imporre qualcosa di insopportabile, queste persone sono scese in piazza, hanno rioccupato la piazza Tahrir, si sono fatte sentire, hanno dimostrato che comunque c'è adesso appunto un fermento politico reale che tanto potrebbe insegnare molto anche al di fuori dell'Egitto, perché comunque sentivo di pratiche estremamente interessanti che vanno avanti sulla piazza. Per esempio impediscono di entrare nella piazza con i megafoni, gli altoparlanti, perché vogliono mantenere il fatto che ogni voce si faccia sentire con la sua forza e non con quella di un'amplificazione che necessariamente è dettata da chi ha più soldi, compra l'amplificatore più grosso. Quindi hanno una serie di cose di democrazia diretta, di democrazia di base, che alle quali si tengono in maniera quasi naif, ma che secondo me in qualche modo un paese che non ha avuto una storia democratica negli ultimi 30 anni sono una maniera di costruire davvero una democrazia, e anche una maniera di parlarsi fra di loro, insomma, in qualche modo è interessante. Loro, quando gli si chiede a che modello si ispirano, dove vogliono arrivare, dicono sempre che vorrebbero crearne uno che sia il più possibile loro e non fare gli errori che hanno già fatto movimenti di lotta tradizionali. Tra l'altro mi sembra un felice connubio tra tecnologia con connessione internet continua e presenza in piazza, per cui la gente si parla, si sta insieme materialmente. Queste due cose abbinate mi sembra che stiano producendo dei risultati molto interessanti. Sì, assolutamente. Appunto, si è parlato di rivoluzione Facebook. Facebook è stato fondamentale per chiamare le persone in piazza, però poi anche alla maniera di Facebook, quindi con una capacità di organizzarsi dal basso, tutta la vera organizzazione è venuta in piazza, è venuta faccia a faccia, proprio facendo i conti con i problemi reali di come prendere la parola, come ascoltare gli altri, cioè tutte quelle normali dinamiche di democrazia e di dibattito che sono proprio costruite, rafforzate in piazza, anche alla maniera di Facebook, nel senso che comunque c'è una maniera di organizzarsi dal basso per nuclei locali che è tipica della rete, che è ritornata in piazza e ha permesso realmente di fare la rivoluzione senza un'organizzazione centralizzata, centralistica, che dava gli ordini alla periferia. C'è stata la periferia che ogni periferia ha organizzato le sue cose e poi queste si sono sviluppate secondo proprio i meccanismi della rete. Per quello, in qualche modo, la rete, quella Facebook e la maniera di mettersi in rete sul territorio si sono riflesse l'uno nell'altra in qualcosa di nuovo, oggettivamente nuovo, perché sì, poi alla fine sì. Sulla piazza anche la maniera di nutrirsi era gestita in questo modo. Chiunque arrivava in piazza portava qualcosa, come quando si fa alle feste, e quello la distribuiva attorno a un gruppo cioè più ristretto di persone attorno a lui, ma questo bastava per sfamare un'intera piazza, cioè non c'è mai stata una distribuzione centralizzata di cibo, cose del genere, perché era tecnicamente impossibile. Però questa organizzazione locale, alla maniera della mia pagina di Facebook su cui posto le cose, funzionava benissimo anche sul terreno. Stefano, visto che stai parlando anche di lavoro al momento, ecco, quale sarà il tuo prossimo impegno, e che avremo modo poi eventualmente di riparlarne e di vederlo? Adesso sto lavorando a un film a cui lavoro ormai da più di 3 anni, che è un film a Gaza, è il ritratto di una famiglia di Gaza. Sono stato già 2 volte, una volta quando ho girato Piombo Fuso per tutto il mese successivo, e poi un anno dopo, e adesso verso fine anno dovrei tornare una terza volta, ed è appunto il ritratto nel tempo di una famiglia di Gaza dalla guerra in poi, quindi un lavoro molto lungo che ha già qualche sessantina di ore di girato, e che comunque ancora è ben lontano dall'essere finito. Beh, avremo modo sicuramente allora prossimamente di parlarne. Tra un annetto forse. Vabbè, ci saranno magari altre novità nel frattempo. Stefano, io ti abbraccio, ricordiamo la proiezione del tuo documentario Tahrir Liberation Square al Clorofilla Film Festival il 16 agosto. Nel frattempo un abbraccio e a risentirci presto. Abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vi ricordo i contatti, l'indirizzo email è visionari@ondarossa.info per inviarci sms in diretta, il numero è 342-357-4357, c'è anche chi ci ascolta in streaming e ci dice che le nostre voci sono un po' in saturazione rispetto ai brani musicali, ma quello chiaramente è un sottofondo, per cui è il nostro sottofondo classico, non ha insomma tutta questa rilevanza. E proseguiamo con tutti i nostri ospiti per questo speciale legato al Clorofilla Film Festival. È con noi Sebastiano Tecchio, regista del documentario Behind the Label, Dietro l'etichetta, in programma al Clorofilla Film Festival il 13 agosto. Sebastiano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Allora, il titolo già sembra indicativo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli effetti dei disastri che sono stati combinati dall'introduzione dei semi OGM nella coltivazione del cotone in India. Sì. E questo è il tema del documentario. Com'è nato il progetto? Il progetto è nato perché Barbara Ceschi a Santa Croce, che è la produttrice, si è interessata a questo tema, che le sembrava insomma interessante. Tra l'altro aggiungo che lei sarà la proiezione, sarà presente alla proiezione al Clorofilla, sì, il 13 agosto, quindi avremo modo anche di parlarne a quattro occhi con lei, insomma. Sì, lei si era appassionata a questo tema e quindi poi ha contattato Cecilia Mastrantonio, che è la coautrice insieme a me del documentario, e in effetti è una storia che aveva bisogno di essere raccontata. E come ti sei mosso poi materialmente? Beh, dunque, prima abbiamo chiaramente fatto molta ricerca sul tema, perché anche per noi era insomma sconosciuto, perché non si sapeva molto, non si sa molto, e poi abbiamo passato quasi 2 mesi e mezzo in India a filmare, e abbiamo fatto 25.000 chilometri nel giro di insomma 2 mesi e mezzo, e siamo andati a raccogliere tutte le testimonianze, perché il discorso dell'OGM che non si sa è che in realtà era stato venduto ai contadini indiani come il seme del miracolo, no? Sì. E in realtà è un flop terribile, insomma basti pensare che dal 1997 al 2010 si sono suicidati più di 250.000 contadini indiani, e molti di questi coltivatori di cotone OGM, perché i semi che promettevano questa grande resa, quindi grandi profitti, in realtà non hanno mantenuto questa promessa e i contadini si sono indebitati. Sì. E quindi, ecco, insomma, siccome siamo vestiti tutti quanti di cotone, è importante sapere che c'è un 50% di probabilità che quello che indossiamo oggi è proveniente da coltivazioni di cotone OGM. Senti, oltre a un problema di resa economica, che non era questa favola raccontata, dal punto di vista invece più materiale, il cotone OGM che caratteristiche ha? No, in realtà il cotone OGM è cotone, nel senso che l'unica differenza che c'è tra un cotone normale, diciamo convenzionale, cosiddetto convenzionale, e il cotone OGM è che il cotone OGM ha dentro nella pianta una tossina, produce una tossina che è velenosa per gli insetti, sì, che si cibano di questa pianta. E alla fine il cotone che viene fuori è lo stesso, cioè non è che è tossico per l'essere umano, è nella fase di coltivazione che crea dei danni, li crea ai contadini, ci sono degli studi che dicono che ci sono migliaia di animali morti per il cotone OGM, che pascolavano sul cotone OGM, quindi è tossico da un punto di vista alimentare. Sì. Però insomma non è che ti rendi conto che hai una maglietta di cotone OGM, certo. È quella la fregatura. Sì, sì. Quindi provoca anche quindi parecchi danni ambientali. Parecchio, perdita di biodiversità, sono spariti tutti i semi locali, perché la Monsanto, che è diciamo la grande colpevole di tutta questa macchinazione diabolica, li ha fatti sparire, quindi non ci sono più semi locali, sono solo quelli che vanno ricomprati ogni anno dai contadini. Ecco, questa è una delle altre questioni di cui abbiamo anche parlato rispetto ad altri lavori che si occupano proprio di sementi OGM, che ogni anno vanno riacquistati, e quindi questo crea una dipendenza forzata dei contadini rispetto alle multinazionali fornitrici. Esattamente, questo è il trucco, no? Sì, che viene utilizzato, diventa veramente come una droga a quel punto, e se poi contemporaneamente fai sparire i semi locali, nessuno li coltiva più, e poi sono gli unici semi che puoi comprare. Certo. Senti Sebastiano, invece a livello, ecco, di esportazioni, che incidenza ha questo il cotone derivante da semi OGM nei mercati esteri? Allora, guarda, l'India ha il 90% del cotone dell'India è OGM. La Cina adesso è al 70%, e la Cina e l'India sono i due paesi che producono e esportano più cotone al mondo. E quindi una stima abbastanza, insomma, precisa è proprio che il 50% del cotone che c'è in giro nei mercati anche italiani, quindi occidentali, è OGM. Quindi stiamo parlando di grossissimi numeri, insomma. Senti, come si stanno muovendo, se si stanno muovendo in qualche modo i contadini per contrastare queste dinamiche? Questa è una buona domanda, nel senso che il contadino indiano non è il contadino occidentale, non ha sindacati, non c'è un tessuto sociale che gli permette di trovare una difesa. Il contadino indiano è isolato. E quindi non si muove, rimane lì e fatica, e finché ce la fa va avanti, ma non ha gli unici appoggi che ha sono le banche, che gli fanno dei prestiti che però poi deve ripagare. C'è pochissima. Pronto? Sì, ti sento. Pronto? Io ti sento. Mi scuso, ma sono. Eccomi. Sebastiano. Dico, non c'è un tessuto sociale che possa aiutare il contadino. Ci sono delle ONG, ci sono dei movimenti, ma insomma, il nostro documentario in India è stato osteggiato e. È stato ferma la censura per quasi 8 mesi, insomma, il contadino non si difende per adesso. Senti Sebastiano, per avere maggiori informazioni su questo tuo lavoro in rete c'è un sito dedicato? Sì, c'è www.behindthelabel.it, behind the label tutto attaccato, e lì c'è, insomma, c'è il trailer, ci sono un po' di informazioni in più. Benissimo. E quindi, insomma, invito tutti a dare un'occhiata. C'è anche un calendario, immagino, di proiezioni future. Sì, abbiamo la prossima, sarà a Milano al questa manifestazione che si chiama So Critical So Fashion, che è alternativa alla settimana della moda milanese, e saremo lì. Bene. Questa è la prossima. Allora, noi ricordiamo intanto l'appuntamento al Clorofilla Film Festival con la tua produttrice il 13 agosto. Sebastiano, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille. Ciao. Ciao. Sebastiano Tecchio, regista del documentario Behind the Label, dietro l'etichetta. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15, prima della pausa estiva. È con noi Paolo Massenzi, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buonasera, ciao a tutti. Allora, tu non eri segnato in scaletta, perché fino all'ultimo siamo stati incerti sul fatto che avremmo parlato di Justice in Italy. Questo documentario sarà presentato all'interno del Clorofilla Film Festival, però alla fine ci siamo riusciti, ne parleremo con te. Intanto diamo la data di proiezione al Clorofilla, tra l'altro noi ci vedremo... 11 agosto, quindi noi 11 agosto, ore 22:15 al Clorofilla Festival. Bene, intanto ci vedremo domani, io arriverò domani al Clorofilla. Senti Paolo, bene, allora parliamo di Justice in Italy, si parla di carceri in Italia, in che modo? L'incontro con Valentina Assone è la prima proiezione del filmato che noi abbiamo potuto sostenere, è avvenuta la settimana scorsa alla Città dell'Alta Economia a Roma. Sì. È un filmato di 30 minuti che entra dentro 8 carceri italiane. e 8 carceri nel corso degli ultimi 8 mesi, 10 mesi, quindi è un filmato reale. Intervistati sono i detenuti, ma sono anche intervistati il personale e le direzioni. Rende l'idea di che cos'è il carcere oggi. È un filmato molto vero, non per forza con toni tragici, ma sicuramente la realtà è che in questo momento ancora abbiamo persone che mangiano dove fanno i bisogni. E questo è disumano. Allora, accanto al resto del mondo del carcere, che noi come associazione Recuperiamoci e comunque come Radio Radicale entra in continuazione. Insomma, noi ieri eravamo a Regina Coeli, il 13 saremo a Poggio Reale. Senti, la realtà, dalle notizie che trapelano, ma insomma anche per chi si occupa un po' più da vicino di carcere, è un grosso sovraffollamento e molti migranti sono tra i detenuti, tra la maggioranza della popolazione carceraria, molti giovani legati insomma in qualche modo a reati relativi alle droghe, che situazione si vive all'interno delle carceri? Si vive una situazione dove il 42% delle persone che sono attualmente detenute sono in attesa di giudizio. Esatto. La statistica degli ultimi anni è che il 50% sono assolte, vengono poi assolte, con costi per la società immensi. In questo momento il carcere crea dei disastri umani che si aggiungono già al disagio che porta questi ragazzi, questi stranieri, con delle leggi del tutto disumane, quindi per non far nomi, Bossi Fini e Fini Giovanardi. Sì. Noi spingiamo, lottiamo perché queste leggi vengano annullate, non cambiate, vengano annullate. Mm-hmm. Uno straniero che arriva in Italia non può finire in galera per non avere il diritto a vivere sul nostro territorio. Anche perché tutto questo mondo, e io sono 3 anni che lo visito, lo giro, è un mondo basato sull'ingiustizia, sull'illegalità. Il carcere è il primo luogo dell'illegalità in questo momento. Quindi chiunque entra in un carcere, quando esce peggiore. Non c'è rieducazione, non c'è trattamento, ce n'è molto in parte. Noi principalmente ci occupiamo di lavoro in carcere con progetti autosostenuti. In questo momento in carcere ci sono meno di 2.000 persone che lavorano contro le 68.000 detenute. Di queste 68.000 detenute il 50% sono stranieri, il 33% se non vado errato, ma poi i numeri contano poco, sono decine di migliaia di persone che sono in carcere per reati di per aver fumato lo spinello. Sì. Quindi è un pochino sicuramente tutto da rifare. Abbiamo insieme alla proiezione del filmato è alla base di dibattiti che noi abbiamo organizzato e stiamo organizzando come dopodomani qui a Festambiente, per portare l'attenzione dei cittadini ad un problema che è un nostro problema, è un problema della nostra società. Voltaire diceva che la nostra società, la società si misura con il livello e la qualità e lo stato delle persone che sono ristrette della libertà. Sì, quindi sì. Fatemi vedere le vostre carceri, non mi fate vedere i vostri palazzi. Certo. Senti Paolo, rispetto alle alternative, alle misure alternative, com'è la situazione? La situazione è che ci sono diversi progetti, sono molto fragili e soprattutto scarsamente sostenuti da chi dovrebbe sostenerli. E quindi le misure alternative sono una cosa bellissima nel momento che si crea un percorso per far sì che sia una misura ed un'alternativa, altrimenti ci sono le misure alternative ma i giudici di sorveglianza non le concedono perché non ci sono le condizioni per poterle praticare. Ieri a Regina Coeli abbiamo verificato nell'ingresso che abbiamo fatto insieme all'onorevole Alfonso Papa, la condizione del 30% di detenuti che effettivamente dovrebbero stare in carcere. Il restante 70% dovrebbe essere in una condizione di pena alternativa o altrimenti di assoluzione totale e non di carcerazione preventiva. La pena alternativa, se praticata, genera sicuramente degli ottimi risultati. La pena alternativa genera una recidiva che è praticamente pari allo 0%, mentre invece le persone che non hanno misure alternative, che non hanno lavoro previsto per legge, perché comunque la legge Smuraglia prevede il lavoro delle persone detenute come rieducazione, la recidiva è praticamente al 70%. Quindi sono numeri che parlano da soli, non è un'interpretazione di parte, tant'è che il problema del carcere sta assumendo sempre di più una tematica, sta diventando una tematica trasversale, non ha colore, non ha politica, ha un'urgenza, la prepotente urgenza del Presidente della Repubblica proclamata il 28 luglio dello scorso anno, a oggi rimane solamente un proclama. Certo. Noi viviamo questa prepotente urgenza, l'urgenza di fare rivoluzione, l'urgenza di cambiare questo mondo, perché è un mondo veramente inumano e incivile. Senti, quanti sono i detenuti intervistati nel documentario e che tipo di difficoltà hanno incontrato gli autori nel visitare queste 8 carceri? I detenuti intervistati nel documentario sono oltre il centinaio. Le carceri visitate sono 8. Sì. Sono Lucciardone di Palermo, Poggio Reale, Padova, Brescia, Bergamo, Regina Coeli, se ricordo bene. Sì. E, le condizioni sono di totale appunto degrado. E no, chiedevo se hanno incontrato difficoltà nel realizzare questo lavoro, insomma, visitando queste 8 strutture. Di oltre 16 ore di filmati ne sono stati, come dire, approvati 30 minuti. Quindi le difficoltà ci sono, nonostante anche all'interno dell'amministrazione penitenziaria ci sono persone sensibili e disponibili, ma sicuramente c'è un atteggiamento di chiusura nei confronti dell'informazione che rende praticamente impossibile documentare. Quindi questo filmato, questo film, peraltro in concorso al premio Ilaria Alpi, è un filmato estremamente importante, perché è stato sicuramente difficile poterlo realizzare, ma finalmente ci si è riusciti. Senti, c'è un sito internet dove si possono avere maggiori dettagli su questo documentario? Sicuramente il sito internet è Radio Radicale, e allo stesso tempo trovate comunque dettagli di questo documentario sul sito di recuperiamoci.org. Io sono indegno sostituto di Valentina Scione nel raccontarvi questo film, ma è prevista per l'autunno una serie di visioni, scusatemi il termine, ma comunque sia di proiezioni, pardon, a partire dalla Camera dei Deputati fino a scendere. A scendere, che significa portarlo nelle scuole, portarlo anche nei centri sociali, perché comunque è necessario che questa informazione sia diffusa al massimo. Bene Paolo, allora ci vediamo a Festambiente, ricordiamo la proiezione del documentario Justice in Italy l'11 agosto alle 22:15, un abbraccio, a risentirci presto. Sì, abbraccio voi, vi ringrazio per il collegamento e vi segnalo anche il successivo, alla fine del filmato ci sarà un dibattito denominato proprio il carcere ai tempi della prepotente urgenza, una tu per tu con l'onorevole Alfonso Papa, che si sta occupando direttamente in prima persona. Oggi a San Vittore, dopodomani saremo a Poggio Reale insieme. Ciao Paolo, a presto. Grazie, arrivederci, ciao. Per i contatti vi ricordo l'indirizzo email visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta il numero è 342-357-4357. Continuiamo con lo speciale Clorofilla Film Festival, parliamo con Paolo Briguglia del suo documentario Chiamatemi Ismael, che sarà in programmazione il 15 agosto. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, buongiorno, ben trovati. Tutto bene? Tutto bene, ti volevo dire solo è un cortometraggio. Di 15 minuti. Cosa ho detto io? Ho detto documentario. Invece è un corto, è vero. Tra l'altro candidato ai David di Donatello. Diciamo che non siamo arrivati nella cinquina. Mi sarebbe piaciuto, però abbiamo presentato, è stato molto apprezzato il corto, anche quando l'abbiamo presentato al Ministero, abbiamo avuto un ottimo punteggio per un sacco di motivi e poi non siamo arrivati in cinquina. Però insomma stiamo andando in giro, in tanti festival e stiamo facendo così la vita che può fare un corto in Italia. Ecco, a questo proposito, qual è la storia che racconta? Racconta una storia vera, io avevo tanti amici senegalesi a Palermo, tutti immigrati, chi con senza permesso di soggiorno, eccetera. E così mi è capitato spesso di ascoltare le loro storie molto divertenti, delle loro avventure rocambolesche, di quello che fanno per vivere, per sopravvivere tante volte. E mi aveva colpito che questi racconti erano sempre insieme drammatici ma anche molto divertenti, ma loro stessi ridono molto di noi, delle cose che gli succedono. E mi dispiaceva che nel cinema il racconto sullo straniero e sull'immigrato è sempre un racconto dai toni molto tristi, molto, cioè come comunque sempre visti molto dall'esterno. Mi piaceva questa idea quasi di camuffarmi, e allora ho raccolto una di queste storie che riguarda un ragazzo che si fidanza con una ragazza di Palermo e lei rimane incinta e poi dopo la famiglia si mette di mezzo, lui non può più vedere questi bambini e gli ho dato una forma, insomma, ho cercato di sintetizzare l'arco narrativo e di raccontarla in 15 minuti. Quindi ecco, questo è un po'. Come mai questa necessità di farne un cortometraggio di un quarto d'ora? Ma in realtà diciamo c'erano tutti gli elementi per farne un film, perché era l'idea quella di raccontare un contesto, quello di Palermo, molto vivo, molto accogliente, con un forte scambio culturale, una presenza della comunità nordafricana molto grande, insomma ce n'erano veramente tante. Però realizzare un film è un lavoro molto più lungo e complesso, in più io faccio l'attore, quindi cioè, diciamo, però era da tanto tempo che mi piaceva l'idea di provare a fare qualcosa come regista. Io non recito in questo cortometraggio, è veramente puramente un lavoro di regista, e questa storia era divertente e quindi ho trovato una produzione che mi ha aiutato a presentarla al Ministero ed è andata così. Però effettivamente chi lo vede mi dice, sai qual è il difetto? Che sembra un film compresso, un cortometraggio. È una cosa con un'idea più piccola realizzata in un arco anche di tempo più breve, quindi insomma magari chi lo sa, continuerò a lavorarci, magari riesco a svilupparne qualcosa di più grande. Senti, che tipo di divulgazione ha avuto? Ci sono state presentazioni pubbliche già? Sono stato a Roma al cinema Apollo 11 perché sì. C'era una collaborazione lì con il centro di memorie migranti, no? Quello che c'è a Roma, e mi hanno invitato a proiettarlo lì e poi l'ho mandato a un festival a Lampedusa, è stato adesso il Clorofilla, poi è stato in diversi festival sempre in Sicilia ma anche in Italia, poi è andato a un festival a Barcellona che ha, come vedete, per tema centrale i diritti umani. Quindi diciamo, noi in Italia, lo sai, non abbiamo un mercato per i cortometraggi o delle reti canali televisivi che fanno una programmazione, insomma. Purtroppo anche qui, a differenza di altri paesi, è un genere che è quasi solo dedicato e fruito da chi li fa e poi va ai festival per vedere le selezioni e li guarda. E quindi diciamo, questa un po' è la vita del corto. Avete pensato a una forma di distribuzione in qualche modo, legata magari a qualche film o a qualche documentario? Sì, però anche quello è difficile, so, hai visto, è raro andare al cinema e vedere un cortometraggio, non succede, quindi questo mercato non c'è, quando ci provi, non lo so, quello che mi è capitato di vedere sono magari cortometraggi che sponsorizzano un prodotto, oppure cioè, delle cose più mirate al marketing, un cortometraggio puro così io non l'ho mai visto al cinema, quindi puoi capire, insomma, non è per niente facile, come dicevo prima, non c'è mercato, quindi noi le cose le abbiamo provate, io... Ho cercato anche a un certo punto la distribuzione via internet, però non esiste come mercato e quindi non è facile farlo. Senti, queste proiezioni pubbliche, che tipo di riscontri hai avuto? Guarda, molto, molto positivi. Dicevo prima, io faccio l'attore, non faccio il regista, sono convinto, così adesso avendolo rivisto ormai tante volte, dei limiti il mio lavoro ce li ha, cioè, tante cose belle e positive, un modo di raccontare Palermo, questi ragazzi, eccetera, sono molte cose molto divertenti, anche molte che fanno riflettere, probabilmente però hanno ragione quelli che dicono come cortometraggio c'è troppa roba. quindi diciamo, vedo che il pubblico rimane molto coinvolto, poi se ne discutono, fanno le domande, ridono molto in alcuni passaggi, eccetera, però quasi come se poi alla fine fossero frastornati perché c'è troppe informazioni. Quindi questo è un po' l'andamento. Poi io purtroppo non sono riuscito tantissimo ad accompagnarlo in giro, sono andato solo a questa proiezione che diceva Roma e poi a Bari, dove c'è il Bari Film Festival di Felice Laudadini, sì, eccetera, dove è stato proiettato anche lì in concorso. È stata ottima l'accoglienza del pubblico, mi fa sperare bene. Penso che continuerò a fare il registro quando posso. Senti, e su internet, in rete, c'è qualche luogo in cui si può trovare maggiori informazioni su Chiamatemi Ismael? Guarda, ancora no, proprio perché molti festival sono ancora aperti, per esempio, ma stiamo inviando, quindi. Però tra un po', appena sarà passato un po' di tempo, penso che lo metterò su YouTube, insomma, quelle cose che si possono fare senza problemi. Sì, lo metterò lì, su Vimeo, insomma, comincerò a farlo un po' girare. Certo. Senti, allora ricordiamo in chiusura la data di proiezione al Clorofilla Film Festival, il 15 agosto, quindi a Ferragosto. Sarai presente anche tu? No, io sono in Sicilia per ora. Non ci sarò. Ma scusami, poi tra l'altro ho letto che c'era una serie di sedi dislocate, no? Perché tipo in Toscana, ma poi queste proiezioni avvengono in giro. E, francamente non mi avevano contattato, forse se l'hanno fatto io ero in giro per impegni di lavoro, quindi non potrò, perché fino al 17 agosto sono fuori. Sì, diciamo che il Clorofilla Film Festival è un po' sparso per l'Italia, però insomma questa è la sua collocazione centrale, questa all'interno di Festambiente dal 10 al 19 è il festival vero e proprio. Poi le altre, siccome poi per sopravvivere e svilupparsi si lega anche ad altre realtà esterne nazionali, ha trovato ospitalità anche in altri luoghi in giro, soprattutto nel sud Italia, e insomma ci sono quindi altre date. Ho capito. Va bene, senti, grazie per l'ospitalità in radio. Senti Paolo, speriamo di risentirci presto per prossime novità tue. Benissimo. Va bene? Ti ringrazio allora. Un abbraccio, ciao. Ciao. Paolo Briguglia, regista del cortometraggio Chiamatemi Ismael. Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15, ultima puntata prima della pausa estiva. Parliamo adesso del cortometraggio Nostos, anche questo in programmazione il 15 agosto all'interno del Clorofilla Film Festival a Rispescia, in provincia di Grosseto. La regia è di Santa De Santis, Alessandro D'Ambrosi. Siamo in collegamento con Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, come stai? Tutto bene, grazie. Voi? Tutto bene. Tra l'altro domani sì, fa caldo, ma domani si parte e si va proprio al Clorofilla Festambiente. Inizia il viaggio. Voi sarete presenti alla proiezione? Noi credo proprio di sì. Adesso dobbiamo cercare di organizzare, perché fortunatamente col film abbiamo diversi festival, almeno una ventina da qui a inizi settembre. Quindi stiamo cercando di incastrare tutte le date, ma credo proprio che saremo presenti e ci teniamo molto. Si parla di guerra, seconda guerra mondiale, quindi anche di memoria, soprattutto di memoria. In che termini, Alessandro? Ma innanzitutto la precisazione è che è un film che trae in realtà la sua causa scatenante da una situazione di guerra, tra l'altro da una situazione di fine guerra, almeno per quanto riguarda la situazione in Italia, perché è il viaggio di ritorno di un soldato, di un giovanissimo soldato italiano, dopo l'armistizio del 43. Sì. Però è un viaggio di ritorno intimo, personale, molto particolare anche, perché ha dei tratti surreali, catartici, e quindi insomma in realtà la guerra è la causa scatenante che fa fuggire, che fa iniziare questo viaggio, che è un viaggio poi però molto intimo, alla scoperta probabilmente anche di se stessi, dove questo soldato riesce a vivere tutte quelle esperienze che fino a quel momento gli sono state negate proprio da questa condizione di violenza, di sopraffazione che la guerra costituisce. Da dove viene l'idea di questo viaggio? Ma noi abbiamo affrontato la narrazione di questo film partendo dai luoghi, nel senso che il film è proprio nato dalle ispirazioni, che le location con le quali siamo venuti in contatto. Il film è tutto girato nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, sì. Quindi a sud di Salerno, provincia di Salerno. Noi siamo venuti in contatto con le location, con questi ambienti naturali davvero eccezionali, incontaminati, mozzafiato, con delle suggestioni intensissime, e da lì è nato il desiderio di raccontare un viaggio di un moderno Ulisse che si perdesse all'interno di questo ambiente naturale, che viene a costituire quasi addirittura il secondo vero protagonista di tutta la storia. Senti, come mai la centralità del paesaggio e della natura in questa storia? Ma perché volevamo raccontare in realtà un ritorno anche a una condizione quasi primitiva, animalesca, no? In un periodo storico in cui la sopraffazione e la civiltà si esprimeva attraverso la violenza, attraverso una serie di rinunce forzate, volevamo raccontare un ritorno a uno stato brado, a uno stato naturale delle cose, che era condizione per potersi riappropriare anche in una dimensione sociale, poi. Sì, e sì. Quindi volevamo raccontare questa regressione che poteva però essere l'unico tramite verso una catarsi, verso una purificazione. E poi volevamo raccontare un viaggio che vivesse anche di suggestioni naturalistiche. Questa per noi è il nostro esordio alla regia, io e Santa De Santis, che è la coautrice e coregista del film, oltre ad essere la mia compagna. Siamo attori nella vita, noi facciamo gli attori, abbiamo iniziato a scrivere come sceneggiatori, prima per il teatro, poi per la TV e per il cinema, ormai dai 6-7 anni, e questo è il nostro esordio alla regia. E quindi volevamo anche creare una narrazione che parlasse per immagini, per suggestioni, e l'ambiente naturale ha una centralità anche per questo motivo qui. Nonostante il riferimento sia alla Seconda Guerra Mondiale e nonostante sia al di fuori dei nostri confini, la guerra comunque è un elemento costante nella storia dell'umanità. A tutt'oggi, insomma, è pieno di conflitti nel mondo. Assolutamente sì, purtroppo è, voglio dire, quasi forse connaturata all'interno dell'essere umano. È un momento di rottura, di crisi, che provoca disastri e disperazioni, dal quale si riesce a risorgere a volte solo, appunto, insomma, andando a ritrovare una dimensione molto intima, molto personale. Ecco perché anche almeno noi abbiamo voluto raccontare un ritorno che era anche però una solitudine, quasi un ritiro spirituale, coatto, forzato, ma fondamentale. Perché a volte, forse sempre di più, lo stare insieme provoca anche conflitto, provoca violenza. Senti Alessandro, ecco, questo viaggio, questa dimensione intima, a cosa porta il protagonista poi alla fine di questo percorso? Lo porta a tornare a casa. Questo era per noi davvero, no, il fulcro di tutta la storia, nel senso che lui, durante questo suo ritorno, si imbatte, incontra luoghi e personaggi misteriosi e emblematici che rappresentano un po', ripeto, insomma, tutto quello che lui fino a quel momento non è riuscito a vivere. E quindi lui riesce a passare attraverso una condizione di amante, una condizione di padre, di figlio, riesce a seppellire ideologicamente il proprio padre anziano, che però ha anche l'aspetto del nemico, di un ufficiale tedesco morto in una piccola chiesa di montagna. E attraverso questi incontri lui riesce a perseverare, ad avere la forza per andare avanti, per continuare, per stare in vita. È un film per noi che parla appunto di questo, anche della forza che solo i desideri e la profonda voglia di vivere riescono a dare alle persone in tutte le situazioni, anche quelle più tragiche. Senti Alessandro, in rete su Nostos si possono avere ulteriori informazioni? Assolutamente sì, innanzitutto fonte principale di altre informazioni, di tanto altro, curiosità, immagini, il trailer del film, i 2 minuti iniziali del film in anteprima, li potete trovare sul nostro sito, sul sito della nostra produzione, che è www.alidisale.it. Benissimo. Trovate anche, insomma, tante informazioni su di noi come attori, come sceneggiatori e sul nostro percorso professionale che stiamo cercando di condurre in questo momento anche sul fronte registico. Devo dire che il film ci sta dando delle bellissime soddisfazioni. Siamo al 20° premio Festival Nazionale e Internazionale, oltre la 50ª selezione ufficiale, solo in 5-6 mesi di distribuzione. E questo è merito anche della splendida squadra con la quale abbiamo lavorato su questo film, perché insomma è giusto, doveroso, ma è anche un piacere ricordare che noi ci siamo potuti avvalere di una serie di professionisti straordinari che speriamo di poter riconfermare nei prossimi progetti. Stiamo davvero cercando di creare una squadra, una sinergia di filmmaker indipendenti, quindi il nostro direttore della fotografia, Ugo Pinto, la costumista Irene Corda e poi il nostro musicista Alessandro De Florio, insomma, più tutti gli altri che adesso insomma non voglio tediarvi, però sono straordinaria e li potete trovare fra i credit del film. Benissimo. E tante altre cose sul sito. Allora, Nostos, cortometraggio a firma di Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi, in programmazione Santa De Santis, che vi saluta tanto, mi è dispiaciuto, ma non può essere in questo momento fisicamente qui con me, sta lavorando, però insomma era qui con noi. In programmazione al Clorofilla Film Festival a Ferragosto, il 15 agosto. Spero di, vabbè, ci vedremo sicuramente lì e spero di risentirvi presto per altre novità in questa trasmissione. Con grande piacere, a disposizione, sempre, sempre molto piacevole. Ciao Alessandro. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Anche a te, ciao. Bene, avremmo dovuto sentire anche Michele Trentini, regista del documentario Piccola Terra, che sarà in programmazione il 12 agosto al Clorofilla Film Festival. Purtroppo è più di un'ora che cerchiamo di contattarlo, ma non ci riusciamo. A questo punto speriamo di risentirlo, visto che è stato presentato anche a un altro festival, al Cinema Ambiente, di cui ci siamo ampiamente occupati. Speriamo di risentirlo alla ripresa delle trasmissioni, ossia a partire da giovedì 30 agosto. A questo punto i saluti, un arrivederci, a risentirci presto, buon proseguimento. Tutte le informazioni su Visionari le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari per l'appunto, gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala dal 10 al 24 agosto e poi nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia, link per leggere recensioni, riascoltare la puntata precedente e tutte le trasmissioni del 2012. Per i contatti l'indirizzo email è visionari@ondarossa.info, per gli sms il numero è 342 357 4357. Buona estate, buon proseguimento.